40 hits, la classifica dei 40 brani più richiesti da voi su Radio Tour The Moving Station. Con me al console abbiamo Gino Palombo e voglio pure ringraziare a Daniele per l'ultima trasmissione do Varco d'Oro. Biate voi che siete al mare, una giornata bella così, però ci compensiamo del fatto che stasera ci troviamo tutti quanti al Pizza Fest. Comunque i 40 brani più richiesti da voi, io sono stato assente dalla classifica da un paio di settimane, diciamo, quindi se è cambiato, molte cose sono cambiati. Infatti abbiamo un nuovo numero uno e perché capire quello dovete restare con noi fino alle 18. Vabbè, potete anche andare via, però tornare prima delle 18 e sentire. Però vi le sconsiglierei perché questi sono i 40 brani più richiesti da voi. Iniziamo subito al numero 40 con Tom Novi a Now or Never. The game, giochiamo il PlayStation tutto il giorno. Ma questo è pubblicità oscena! Come si può fare così? Pagano a noi Gino per trasmettere questo? Sì, adesso spero di sì. Oh. Comunque, ho visto in giornale, mercoledì mi pare, che i Nintendo stanno cercando persone per provare le loro nuove giochi, quindi pagano pure bene. Questa è una cosa allucinante. Quindi controllate il vostro giornale se è una cosa che vi interessa. Questo magari innodi, se possiamo dire, al Nintendo, eccetera. E dall'Apple 65, si chiama My Console, e si trova sulla nostra classifica al numero 39. Allora, in posizione più avanzata, avanti, troviamo una canzone proprio The Sound of the Summer, e Neck al numero 38, e ci sei tu. Sì, questo è Belle Perez with Hello World, e che dobbiamo salutare qualcuno con questo. Questo è il numero 37, e il numero 36 troviamo qualcuno che forse ci sta ascoltando al momento, perché si trova a Napoli, suona stasera gratis al Pizza Fest, e si trova al numero 36 nella vostra classifica. Pubblicità e poi Nicola Fabi. SPOT. Qualcosa di meglio al numero 36 sulla classifica, e lo saluto se ci sta ascoltando. Noi, essendo la radio ufficiale del Pizza Fest, saremo lì a trasmettere mentre lui sta in onda, e quindi stasera venite giù, vedete un po' Nicolo Fabi e viene a salutarci pure sul Radio Tour at the Pizza Fest al stazione marittima stasera. Questo era il numero 36. A 35 troviamo i Bumfunk MCs with Freestyler. Numero 34, Maxim dai Prodigy con la voce di Skin. E Skin ultimamente è stato visto a Venezia per la festival, ha visto un bel paio di film lì e si è divertita molto. Mentre Maxim, come sappiamo, è dei Prodigy, e ho notizie che un po' di pettegolezza, ma non è notizia, che riguarda il Prodigy. Liam Howlett e Prodigy sembra sta uscendo con Natalie Appleton dai All Saints. Ecco, l'avete sentito per prima qua su Radio Tour. Noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità e torniamo tra poco con il numero 33. That's Anastasia and I'm out of love. Mi manca l'amore. Questa è la classifica delle cose, delle canzoni più richieste da voi questa settimana on Radio Tour The Moving Station. E al numero 32 vediamo un artista italiano che si è trovato a Modena, si è iniziato la carriera nel 1990 e adesso nel 2000 ha festeggiato 10 anni di suonare, di concerti, facendo un gran bel concerto proprio alla Festa dell'Unità a Modena, dove ha iniziato 10 anni prima. Adesso c'erano 18.000 persone presenti, e questo artista ha proposto prima i primi 4 brani che ha suonato 10 anni prima. Se avete capito, un gran bella festa per l'artista al numero 32 sulla nostra classifica. Se viene, se va, do Ligabue. Era il partner una volta in musica, almeno di Nicolo Fabi, che vi ricordo stasera suono al Pizza Festa. Comunque Max Caseido solo con l'uomo più furbo si trova al numero 31 sulla vostra classifica, quello che avete richiesto voi questa settimana telefonando a Radio Tour The Moving Station. Noi prendiamo una piccola pausa pubblicitaria e torniamo con i Red Hot Chili Peppers al numero 30. Number 30, numero 30 sulla nostra classifica dei brani più richiesti da voi sono i Red Hot Chili Peppers with Californication. E questo brano è proprio un simbolo di questo brano, diciamo, il video che si fa ricordare subito, un veramente bel video. E loro hanno vinto un gran bel award al premio al MTV Awards in America, hanno vinto il Video Vanguard Award per il loro outstanding contribution a music video medium per tutte le loro carriere. Hanno anche vinto The Best Direction, miglior regia sia per l'arte che per tutto il video. Ottimo. Allora andiamo avanti, il numero 29 troviamo Zero Zen con Zona Bikini. 29 sono i Zero Zen, la classifica dai brani più richiesti da voi. Allora, voi avete telefonato a richiedere tutti questi brani, però non è l'unica cosa che potete fare per partecipare alle attività di Radio Tour, perché adesso vi segniamo delle grandi eventi da seguire. Zona Bikini Radio Tour, The Moving Station, la radio dei grandi eventi. Festa dell'Unità, fino al 17 settembre tutte le sere la Festa dell'Unità con Subsonica, Delta V, Naftalina, altri artisti e col Cabre a cura di Tano. Festa dell'Unità fino al 17 settembre all'Arenile di Bagnoli, Napoli. Radio ufficiale, Radio Tour. La sesta edizione di Premio Civitas per la promozione di iniziative di cultura e spettacolo. Domenica 17 settembre in Piazza della Repubblica a Pozzuoli, Napoli. Ci saranno Ornella Muti, Katia Ricciarelli ed un prestigioso sfilata di moda. Radio Tour. Sabato pomeriggio abbiamo due irlandesi. Ci abbiamo io che le presento e poi due altri artisti in classifica. Allora, l'altra si trova al numero 6, poi vediamo chi è. Ma adesso qua troviamo al numero 27 la bella voce di Samantha Mamba. E la cosa strana è che tutti e due di questi artisti sono maneggiati, diciamo, gestiti da Lewis Walsh. Strano questo. Torniamo tra pochissimo. Ladies and gentlemen, the clock. Le 16. Hey, that's the love bite with Take Your Time. Yes, this is Fergal Kavanagh with Gino Palombo al controllo. E noi stiamo conteggiando, come si dice, contando i 40 pezzi, i 40 brani più richiesti da voi on Radio Tour The Moving Station. Siamo arrivati soltanto al numero 26, quindi vuol dire che ci sono 25 bellissimi brani da ascoltare. Adesso iniziamo subito col numero 25, Fragma with Tucker's Miracle. Position number. E mi è ovvio che voi amate proprio la musica italiana. E infatti devo dire, non è molto conosciuto in Irlanda, però da quando sono venuto qua in Italia ho visto voi avete pure una grande cultura del rock. Questo Plastico with Strani Sintomi si trova al numero 24 sulla vostra classifica dai brani più richiesto da voi on Radio Tour The Moving Station. E a proposito di musica italiana, un altro grande gruppo rock si chiamano Velvet e si trovano al numero 23 sulla vostra classifica with Tokyo Eyes. Sì, da grande Velvet, un nuovo gruppo per me, però aspetto con ansia il loro prossimo disco per vedere se è bello come questo. Questo si trova al numero 23 on the Top 40 Countdown, Top 40 Hits as chosen by you on Radio Tour. Allora è il tempo di un breve pausa pubblicitario, però torniamo con un gran bel cantante al numero 22, Gabriele. Un milione di copie in tutta Europa, allucinante, è un bel numero di album questo. Brava Gabriella, al numero 22. E al numero 21 troviamo i Hanson with This Time Around. Position number 21. I turn to you, that's Melanie C. E Melanie C, well, che attività in questo periodo. Lei adesso, come sapete, ha fatto uscire un nuovo singolo con suo gruppo The Spice Girls, Holler Holler. Anzi, non è uscito ancora, sta per uscire. Ma adesso, proprio in questi giorni, sta facendo un tournée dell'Inghilterra, facendo concerti solo. Un tour che toccherà pure l'Italia a Milano a novembre. Quindi molto attività per lei. Poi, dopo la promozione di questo, torna a promuovere con le Spice Girls. Wow, immagino che lei aspetta il riposo di Natale. Comunque, piccola pausa per noi, torniamo con il 19 tra poco. Ove, questo è Sonic with It Feels So Good. E vi siete mai chiesto da dove ha pigliato questo nome Sonic? Allora, lei ha spiegato in un'intervista che il suo nome è Sonia, però siccome i suoi amici dicono che lei è unique, cioè unica, lei ha riunito i due a dire Sonic. Ecco, It Feels So Good, sente così buono e ci credo. Allora, questo è al numero 19 e al numero 18 troviamo un grande artista di alta qualità che ha fatto un gran concerto qua in Italia, ha fatto un sacco di festival pure in Inghilterra e in tutto il mondo in questo periodo e tornerà in Italia, a Milano e a Roma a novembre, quindi andate a prenotare i biglietti per vedere l'artista al numero 18 con Porcelain e Moby. Questa classifica dei brani più richiesto on Radio Tour The Moving Station, that's Moby with Porcelain, taken from the album Play. E Moby sembra che gli piace una festa, infatti ha fatto un bel scherzo ad un festa che è stato noto tra l'altro perché è stata la festa di Puff Daddy e Puff Daddy, come sappiamo, è fidanzato con Jennifer Lopez, ma Jennifer Lopez non era a questa grande festa che tiene Puff Daddy ogni anno. Ufficialmente si dicono che era a fare una vacanza vacanza in Messico per riposare dopo il lavoro che ha fatto per promuovere l'album film, eccetera. Però le voci dicono che hanno litigato Puff Daddy e Jennifer Lopez, e chissà, questo viene negato, questo viene confermato, non si capisce più. Comunque, per tornare al discorso, Moby alla festa ad un certo punto si è collassato sul il prato all'inglese e tutti quanti preoccupati: ma che sta succedendo a Moby? Poi Moby si è rialzato, fa boom, ecco il sorpreso. Oh, che bel scherzo, ecco Moby è un tipo pazzo. Non invitatelo alla vostra festa qua sul terrazzo di Napoli, chissà che potrebbe succedere. Comunque, questo si trova al numero 18 e Moby è stato uno dei presentatori al MTV Awards in America un paio di settimane fa. Un'altra presentatrice ha sorpreso che è comparso con suo marito Bobby Brown era Whitney Houston, e questa presenza ha confermato che lei si sta guarando, diciamo, del suo dipendenza sulle droghe, il quale ci fa piacere, e immagino che farà piacere pure ad Enrique Iglesias, che si trova a cantare con lei sul numero 17, Could I Have This Kiss Forever, Whitney Houston and Enrique Iglesias. La siciliana catanese Carmen Consoli, e lei ha suonato un concerto nella sua Sicilia, di preciso a San Filippo di Mela la settimana scorsa, nel centrale termoelettrica del Enel, e purtroppo ha trovato una protesta degli ambientalisti che ha turbato un po' l'atmosfera del concerto. Un trentino di giovani con mascherine antigas si sono raggruppati all'ingresso del centrale con in mani alcuni manifesti, dicendo che questo passava un po' di inquinamento. Carmen, avevo detto, guardi, io non sapevo niente di questa manifestazione, cosa posso dire? Io faccio la cantante, sono una donna di spettacolo e basta. Radio Tour. Sagra dei Funghi, intorno al 21 settembre al 1 ottobre, alla Sagra dei Funghi di Cusano Mutri. Parapendio, bungee jumping, visite guidate al parco di Petrarora. Tante altre attività. E sabato 23, serata Radio Tour con Fabio Brescia e DJ Banderas. Dal 21 settembre al 1 ottobre Radio Tour con la Moving Station e alla Sagra dei Funghi. Cusano Mutri, Benevento, infoline 0824-862-003. Radio Tour. Numero 14, that's the bomb from Love Connection on Radio Tour, the Moving Station. La classifica al top 40 dai brani più richiesti da voi. Allora, un messaggio che è arrivato al GSM Box, ce ne sono abbastanza e vi leggo piano piano durante il resto del programma, l'ora che manca. Comunque, Giussi ha scritto, voleva sapere se il top 40 è replicato domani e da che ora. Allora la risposta è sì, dalle 15 alle 18, solo che io non ci sono, è solo la musica che di domenica pomeriggio non è nemmeno dispiacevole. Allora noi andiamo avanti al numero 13, Top Loader. Position. See, that's Top Loader with Dancing in the Moonlight, questo gruppo inglese che stanno avendo molto, ma molto successo in tutta Europa, e questo è stato aiutato anche dal fatto che sono andati in giro con i Bon Jovi a fare il support slot. A proposito dei Bon Jovi, dovevano suonare qua in Italia, però bello e buono hanno annullato il concerto, non si capisce perché, e anche mi pare che John Bon Jovi è stato vista a Venice, se non sbaglio, ma invece di vedere i fans a Venezia al Film Festival voleva passare tutto il suo tempo con gli All Saints. Mamma mia, questo è... c'ha l'idea vostra giusta forse. Comunque, stiamo parlando di Top Loader. Allora, loro hanno avuto questo successo in Europa grazie al support slot alle spalle con Bon Jovi, e vedo che Bon Jovi stanno per tornare in America a fare un grande tour, il primo in 5 anni in America, e se portano i Top Loader con loro questa volta, come dicono, il cielo è il limite, the sky is the limit for Top Loader al numero 13. Noi prendiamo una piccola pausa per controllare un po' l'orologio, poi torniamo tra pochissimo, infatti tra meno di 30 secondi più o meno, con il numero 12. Ladies and gentlemen, the clock. Le 17. Britney Spears with Lucky. You're listening to Radio Tour. My name is Fergal Cavanaugh, and with me there's Gino Palombo at the console. E noi stiamo facendo sentire il top 40 brani più richiesti da voi questa settimana on Radio Tour, the Moving Station. There at number 12, al numero 12, Britney Spears. E Britney Spears ha fatto un po' di, non proprio polemica, però come si dice, ha aperto un po' gli occhi alla gente al MTV Music Awards in America la settimana scorsa. Praticamente ha fatto un performance del suo grande hit Oops, I Did. Did It Again, e è stato vestito in modo abbastanza, non aveva molto vestiti, ha fatto un po' le spogliarista quasi quasi sul palco, e infatti i presentatori, perché Britney Spears è ancora un diciottenne, no? Intendiamoci, ha detto Britney Spears è andato dal Mickey Mouse Club, cioè il club di Topolino, fino al strip club. Questo è stato un bel commento. E altre notizie che quasi riguarda Britney Spears, e questa è una curiosità che fa i brividi proprio. Allora, in Australia, in Tasmania, un ragazzo ha tirato tutte le sue dente con un pinziche. Perché ha fatto così? Ha fatto così perché nella nostra cultura, non so se è così in Italia, però se hai un dente, quando le levano, si mette sotto la cucina del letto e arriva il Tooth Fairy, cioè quello che ti dà i soldi per le dente, eccetera. Sì, Gino mi sta dicendo che è pure qua in Italia. Come si chiama, Gino, questo piccolo signora? E Gino non lo sa, non hai perso i denti per un po'. Però perché ha fatto questo ragazzo ad attirare su tutte le dente con le pinziche? Per raccogliere abbastanza soldi per comprare i CD di Britney Spears. Mamma mia, fa paura proprio. Comunque, lei è il numero 12. Al numero 11 troviamo Janet Jackson with Doesn't Really Matter. For 11, that's Janet Jackson with Doesn't Really Matter. E Janet Jackson è un altro degli artisti che ha fatto un performance al MTV Awards la settimana scorsa in America. Allora, ho appena ricevuto un messaggio qua dove c'è scritto "e poi" e nient'altro. Immagino che si riferisce alla notizia di Britney Spears e questo ragazzo che ha levato i denti. Comunque, questo ragazzo aveva 7 anni, voglio stipulare. E spero, non lo so, però spero che abbia avuto il suo CD, sì. Comunque, allora, classifica, stiamo guardando il top 40 hit, siamo quasi arrivati al numero 10, però prima facciamo un piccolo riepilogo dei top 20, cioè bottom 20 se vuoi dire. Al numero 20, Melanie C, I Turn to You. Numero 19, Sonic, It Feels So Good. 18, Moby with Porcelain. E 17, Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever. Carmen Consoli, Parole di Boris, si trova al numero 16, e al 15, ATC with Around the World. Number 14, Love Connection, The Bomb. And 13, Top Loader with Dancing in the Moonlight. Al numero 12 avete sentito Britney Spears with Lucky. E al numero 11 abbiamo appena sentito insieme Janet Jackson with Doesn't Really Matter. Quindi arriviamo in top 10. 10 hits to listen to. Al numero 10 iniziamo subito il top 10 con Aaliyah with Try Again. Try Again. Allora leggo un paio di messaggi al volo perché sennò non riesco a fare tutto. Allora, Chris e Vincenzo, ciao, dicono che sono i palinutisti del più forte del mondo. Bravi, forza Avion Center. Ciao a Nando. Ciao a Luna, che dice che è in spagnolo, è la prima volta che ci scrive. Non ci credo, io credo che sia una ragazza di nome Stefania, però forse sbaglio. Freddy, voglio salutare tutti i surfisti di Vindicio, Noemi e la grande Fede. Siamo Sara e Ludo, vogliamo mandare un grandissimo bacio a Bambi. Dicono che sei fantastico, Bambi, e che tu mancherai tantissimo a Sara. Allora, qua c'è Savio, che volevo ringraziare a noi Radio Tour perché mi tenete incollato alla sedia. O da studiare. Questo vuol dire cosa? Oh, ti devi alzare a ballare incollato alla sedia? No, però magari non ti vuoi allontanare tanto perché la bella musica della Top 40 on Radio Tour, come votate, come richiesto da voi questa settimana. Noi facciamo una piccola pausa, torniamo con il numero 9 dove troviamo Robbie Williams. It's 9, that's Robbie Williams with Rock DJ. E ragazzi, c'ho così tanto notizia di darvi a proposito di Robbie Williams che saremo qua fino a mezzanotte stasera, stanotte se vi raccontassi tutto. E voi sapete che dovete andare al Pizza Festa a festeggiare, a mangiare la pizza e anche a vedere Nicolo Fabi in concerto stasera a Stazione Marittime, quindi è meglio che non vi trattengo sulle notizie di Robbie Williams, però vi voglio dare due che mi ha preso un colpo, diciamo. Allora, praticamente a Manchester la settimana scorsa c'erano ragazzi a giocare un partita di calcio, ecco, poi all'improvviso rumore di elicottero, scende questo, arriva, si ferma, scende Robbie Williams e dice ciao, posso giocare con voi? Loro hanno detto sì, va bene, certo, e lui ha segnato 3 gol in 20 minuti, incredibile. Alla fine ha ringraziato tutti e risalito in elicottero e scomparso in cielo, ha detto ai ragazzi ci siamo anche dimenticati di chiedergli le 4 sterline per l'affitto del campo. Bello questo. E poi l'altra notizia, questo è un po' scioccante. Robbie Williams è stato chiesto qual è stato il regalo più strano che abbia mai ricevuto da un fan nella tua carriera, e lui ha risposto molto onestamente, devo dire, con molto coraggio, ha risposto l'herpes. Eccolo al numero 9, Robbie Williams, Rock DJ. Al numero 8 sulla classifica dei brani più richiesti da voi on Radio Tour The Moving Station troviamo i Reggae National Tickets with El Mondo. Numero 7, that's Piero Pelù, ex cantante di Litfiba, adesso in tour con il vecchio gruppo di Litfiba, anche se è Piero Pelù solo. Eccoci qua. Comunque questo è Toro Lucco. Noi adesso facciamo una piccola pausa, torniamo con il numero 6 e troviamo il secondo irlandese in classifica oggi. Chi potrebbe essere? Un irlandese come me che si trova nella classifica dei brani più richiesti da voi al numero 6, number 6, e questo Life is a Roller Coaster è in collaborazione con Greg Alexander dei New Radicals, e perciò spiega un po' il nuovo sound. Ma Ronan Keating adesso è un progetto di un'altra collaborazione sotto mano, già registrato, farà un duetto di un canzone con e scritto da Brian Adams, e sembra che sarà il suo prossimo singolo, quindi immagino possiamo aspettare un'altra gran bel hit o lui. Al numero 6, al numero 5 troviamo un gruppo, un duetto francese con Lady Hear Me Tonight, sono i Mojo. Numero 4, The Sound of the Summer on Radio Tour, that's Paola e Chiara with Vamos a Ballar, e ho sentito da qualche parte che quelli hanno registrato pure in inglese, quindi forse possiamo sentire questa grande performance in inglese, almeno speriamo che è grande. Comunque loro sono appassionati dell'Irlanda, quindi hanno passato molto tempo lì, e si spera che l'accento sarà un po' simile alla mia, no? Vai, speriamo, le sentiamo. Comunque questo è al numero 4, facciamo un piccolo riepilogo dal 10 al 4. Allora, al numero 10 abbiamo sentito Aleya, Try Again. Numero 9, Robbie Williams, Rock DJ. Al 8, Reggae National Tickets with El Mondo. Numero 7, Pier Pelù e Tore Loco. E numero 6, Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Lady dei Mojo si trova al numero 5, e avete appena sentito Paolo e Chiara con Vamos a Ballar. Allora, vi ho detto che c'erano due irlandesi in classifica, intendevo artisti soli, no? C'è anche un gruppo irlandese in classifica. Ho detto che Paolo e Chiara sono appassionate dell'Irlanda, e il prossimo gruppo sono proprio irlandese. Al numero 3 sentiamo dopo la pubblicità. That's The Corrs, un grande gruppo irlandese che hanno firmato il loro contratto, il primo contratto discografico in America, però non stanno avendo il successo in America che vorrebbero, come hanno in tutta Europa e tutto il resto del mondo, e perciò partono in questi giorni a fare un gran bel tour lì. Infatti loro in Inghilterra soltanto hanno venduto 2,7 milioni di copie di Talk on Corners, loro album precedente, incredibile questo fatto, e poi in tutta Europa hanno venduto 2 milioni di copie già di In Blue, l'ultimo album da cui si tratta, Breathless. Comunque questo è incredibile anche perché l'album è uscito soltanto a luglio, quindi ha venduto come un pazzo, e loro, come ho detto, sperano di fare lo stesso successo in America. Speriamo pure noi bene per loro, perché è veramente bello questo brano Breathless. Allora, un paio di cose da segnalarvi, attenzione. Radio Tour, The Moving Station, la radio dei grandi eventi. Radio Tour, la radio dei grandi eventi, vi segnala Pizza Fest il 15 al 19 settembre, Pizza Fest 2000. Sabato 16, concerto gratuito di Nicolo Fabi e poi la famiglia, Gigi D'Alessio e tanti altri. Pizza Fest 2000, cabaret, musica e tante sorprese. Dal 15 al 19 settembre alla stazione marittima di Napoli. Radio ufficiale, Radio Tour. La quinta edizione, anzi la sesta edizione di Premio Civitas per la promozione di iniziative di cultura e spettacolo. Domenica 17 settembre in Piazza della Repubblica a Pozzuoli, Napoli. Ci saranno Ornella Muti, Katia Ricciarelli ed un prestigiosa sfilata di moda. Radio numero 2, that's Morcheeba with Rome Wasn't Built in a Day. È il numero 2, quindi siamo quasi arrivati al numero 1. Allora, praticamente prima di fare voglio leggere un paio di messaggi. Messaggio non firmato, c'è Freestyler nella classifica? Sì, c'è, è stato al numero 35, non state ascoltando dall'inizio. Oh, bocciato, questo è grave. Allora, poi Carmella ci ha scritto e vorrebbe perfezionare il suo inglese, vorrebbe parlare con me. Allora Carmella, posso invitarti di venire domani al Pizza Fest. Io trasmetto lì dalle 18 alle 20. Vienimi a trovare e poi ne parliamo un po' in inglese, vai. Ti aspetto, Carmella. Giovanni, ti amo da morire. Questo non è stato firmato, chissà chi è. Poi Virginia, mando un bacione a miei due migliori amici, Valentina e Giancarlo. Vi voglio un casino di bene. Siamo degli amici Ciccio, Cristino e Vincenzo. Vogliamo salutare al mister dell'Avion Center, a Fabio Coda. Dice che è grande come noi, grazie. E poi ciao, sono Costi, do Terzigno. Lo studio è una noia, mi sono stufata. Ma meno male che ci siete voi. Un bacione al mio migliore amico Patti, Mary, Barbie, Ima e a voi. Grazie tantissimo. Lo studio sì che è pesante, però siete appena tornati a scuola. Almeno la sabato fatelo, il sabato fatelo libero. E se il pomeriggio non siete riuscito a farlo libero, diciamo, perché stasera non mettete via i libri, metteteli via e uscite un po' al Pizza Fest a vedere Niccolò Fabi che fa il suo concerto gratis stasera. Ok, il top 40, torniamo alle cose molto importanti. Al numero 3 abbiamo visto The Cars with Breathless, al numero 2 Morcheeba with Rome Wasn't Built in a Day, e al numero 1 troviamo un artista, forse l'artista più grande del mondo, chi la potrebbe sapere. Comunque si trova pure al numero 1 con questo brano nelle classifiche americane, è il suo 12° numero 1 praticamente. E perciò una rivista ha fatto un tipo di sondaggio per chiedere qual è il numero 1 di questo signora. Stiamo parlando, se non avete indovinato, di Madonna, chiaramente. Comunque, qual è il numero 1 di lei, il successo di lei avuto che piace di più? E il 25% hanno risposto, il vincitore è stato suo brano del 87, se non sbaglio, anzi 90, mi scusi, che si chiama Vogue, un gran bel singolo quello. E adesso il numero 1 lo troviamo ancora nel 2000 con un altro gran bel singolo, questo è Madonna con Music. Number 1. She is number one, the top spot for Madonna with Music. E questo è Radio Tour The Movie Station, la classifica dai brani più richiesto da voi. Allora, mi sembra giusto che vi faccio sentire un po' quali sono gli altri numeri uno più richiesti di Madonna, diciamo. Allora, ho detto al numero uno, il numero uno più piaciuto dagli americani sarebbe Vogue. E poi il secondo è Like a Prayer con 19% del voto. Take a Bow al numero 3 con 12%, e Like a Virgin, il primo numero uno mai per Madonna dell'84, e ha vinto 9,5% dai voti. Ecco, quindi questo è un po' un riassunto della carriera di Madonna. Brava, si trova nel 2000 al numero uno un'altra volta. Ragazzi, è quasi arrivato il momento di salutarci. Allora, prima di andare volevo salutare a Sabina e Cosè che mi hanno invitato a mangiare stasera. Mo mi metto in crisi, che si mangia, perché io devo decidere, vado al Pizza Fest a mangiare e poi vedo Niccolò Fabi mangio un po' di pasta, che ne sa. Comunque l'importanza è di ricordare che stasera c'è Niccolò Fabi, e poi dopo il punto ora arriva Luca con il suo programma e noi vi salutiamo fino a quest'ora domani, fino alle 18, ci sentiamo dopo Pizza Fest. Io sono Fergal Kavna, ringrazio tantissimo a Gino Palombo per sua contribuzione, collaborazione qua, e io vi saluto. Thank you very much. Alla prossima.